Non c'è speranza, devi avere pazienza. Ti ho tratto nella rete con indifferenza. Ci sei cascato e non c'è uscita. E tutta la tua vita diventa una salita. Arrivo in cima, ti senti che hai perso. La tua vita è quella di uno stesso. Non puoi tornare dietro ai tuoi passi. Niente speranza, solo sopravvivenza. La donna tigre non è mai sazia, ti graffia la pelle, il cuore ti strazia. Tu la senti debole, dolcissima e reale, ma quando ti ha preso è cinica e sleale. Fra calde carezze ti tocca il cuore per ottenere tutto quello che vuole. Come un cane dal suo padroncino, ci torni e la scotti che sei un cretino. Lei ti sovrasta con tutta la sua forza, sempre insiste, mai desiste. Non c'è speranza, solo pazienza, spirito di sopravvivenza. Occhi dolci, mani vellutate, posavo fossero tutto quelle dolci serate. Ti ha incantato, ti ha incastrato, nella sua tela magica ti ha imbrigliato. Non c'è speranza, solo pazienza, solo spirito di sopravvivenza.